Terzo anello, ad alta voce, L'isola del tesoro di Robert Louis Stevenson. Così passarono le settimane, finché un bel giorno giunse all'indirizzo del dottor Livesey una lettera con questa avvertenza: da aprirsi in caso di assenza da Tom Redruth o dal giovane Hawkins. Eseguito l'ordine, trovammo, o meglio, trovai io, perché il guardacaccia non sapeva leggere altro che lo stampato, le seguenti importanti notizie. Albergo dell'Ancora Vecchia, Bristol, 1 marzo. Caro Livesey, ignorando se vi troviate al castello o se siate ancora a Londra, spedisco 2 copie di questa lettera a entrambi gli indirizzi. Il bastimento è stato acquistato e armato, è all'ancora pronto a salpare. Non potreste immaginare una goletta più agevole. Un bimbo potrebbe governarla. Portata a 200 tonnellate. Nome? Hispaniola. L'ho avuta attraverso il mio vecchio amico Blandley, che mi si è rivelato il più straordinario asso in materia. Questo impareggiabile amico si è proprio prodigato nel mio interesse, e altrettanto hanno fatto tutti qui a Bristol, non appena è trapelato verso qual porto salpavamo, voglio dire, il tesoro. Redruth, dissi io interrompendo la lettura, questa non garberebbe al dottor Livesey. Il cavaliere ha finito per chiacchierare. E chi ne aveva più diritto? Sarebbe davvero bizzarro che il cavaliere non dovesse parlare per compiacere al dottor Livesey, brontolò il guardacaccia. Quella sortita mi fece abbandonare ogni tentativo di commento e continuai a leggere, di filato. È stato lo stesso Blandley a trovare la Hispaniola e con abili manovre è riuscito ad averla per una miseria. Mi ci voleva una buona 20 di uomini per il caso di scontri con indigeni, con filibustieri o con quegli esosi francesi. E avevo fatto una fatica indiavolata per farne saltar fuori una 30 quando uno spettacoloso colpo di fortuna mi fece imbattere nell'individuo che faceva al caso mio. Mi trovavo sul molo e fu per puro caso che attaccai discorso con lui, seppi che era un vecchio marinaio che gestiva un'osteria, che conosceva tutta la gente di mare di Bristol, che a terra ci aveva rimesso la salute e cercava una buona cuccetta di cuoco a bordo per rimettersi a navigare. Quella mattina era venuto zoppicando fin lì, mi disse, per respirare una boccata di salmastro. Rimasi prodigiosamente commosso, e voi avreste fatto altrettanto, seduta stante, e per pura compassione lo assunsi seduta stante come cuoco di bordo. Si chiama Long John Silver e ha una gamba di meno, ma questo lo considero una raccomandazione perché l'ha perduta servendo la patria sotto l'immortale Hook. E dire, Livesey, che non ha pensione, in che razza di tempi ci tocca vivere. Dunque io credevo di non aver trovato che un cuoco, mentre avevo trovato una ciurma intera. Tra Silver e me mettemmo insieme in pochi giorni una cozzaglia delle più spregiudicate pellacce immaginabili, ceffi non belli da rimirare, a giudicar dall'aspetto, ma di tempra indomabile. Vi garantisco che potremmo dar battaglia a una fregata. Io sto magnificamente di corpo e di spirito, mangio come un orco, dormo come un ghiro, eppure non mi riesce di godere un istante finché non saremo salpati. Si parte! Accidenti al tesoro! È lo splendore di questo mare che mi ha dato alla testa. Cosicché, per tornare a bomba, precipitatevi, Livesey, a giro di posta, non perdete un'ora, se avete per me del rispetto. Mandate subito il giovane Hawkins a far visita a sua madre, scortato da Redruth. Poi volate a Bristol. John Trelawney. Post scriptum. Non vi ho detto che Blandley, il quale, en passant, ci manderà al seguito una nave se non fossimo di ritorno a fine agosto, mi ha trovato un tipo magnifico di capitano, un po' rigido e questo mi dispiace, ma sotto ogni altro rispetto, un asso. Long John Silver ha trovato un competentissimo secondo a nome Arrow. Io ho un nostromo che suona il fischietto, Livesey, così che le cose si faranno come sulle navi da guerra, sulla nostra ottima Hispaniola. Mi sono scordato di dirvi che Silver è una persona a posto. So da fonte personale che ha un conto in banca che non ha mai sconfinato. Lascia la moglie a dirigere l'osteria. E dato che è una donna di colore, un paio di scapoloni impenitenti come noi due possono essere scusati se insinuano che sia la moglie, almeno quanto la salute, a rimandarlo a vagabondare. Post post scriptum. Hawkins può trattenersi una notte presso sua madre. Ero fuori di me dalla gioia, e se mai ho disprezzato qualcuno fu il vecchio Tom Redruth, che non sapeva far altro che mugolare e gemere. Qualunque dei suoi sottoposti sarebbe stato felice di far cambio con lui, ma questo non era il desiderio del cavaliere, e i desideri del signor Trelawney erano legge per tutti. All'infuori del vecchio Redruth nessuno si sarebbe azzardato nemmeno a brontolare. La mattina dopo, lui ed io ci mettemmo in cammino a piedi per l'Admiral Benbow, dove trovai mia madre, ben disposta di corpo e di spirito. Il capitano, causa di tanti fastidi, era partito per dove i malvagi cessano di nuocere. Il cavaliere aveva fatto riparare ogni cosa, fatto ridipingere a nuovo le stanze destinate al pubblico e l'insegna, e ci aveva aggiunto qualche mobile. In prima linea un bel seggiolone a braccioli per la mamma al banco. Le aveva anche trovato un ragazzo apprendista, in modo che durante la mia assenza non le mancasse l'aiuto. La notte passò, e l'indomani dopo pranzo ci ritrovò Redruth e io in marcia a piedi sulla strada. Dissi addio a mia madre e alla baia dove ero vissuto dalla nascita, e al caro vecchio Admiral Benbow, non più così caro da quando era stato ridipinto. Uno dei miei ultimi pensieri fu per il capitano, che avevo visto così spesso misurare a grandi passi la spiaggia, con il suo cappello a tricorno, la guancia sfregiata dalla sciabolata, e quel vecchio cannocchiale d'ottone. Un momento dopo avevamo svoltato l'angolo e la mia casa non era più in vista. Il postale ci raccolse sul crepuscolo al Royal George, sulla brughiera. Mi trovai incuneato fra Redruth e un vecchio signore panciuto, e malgrado la corsa veloce e la gelida aria notturna, devo aver sonnecchiato un bel po' fin dal principio, e poi dormito della grossa per colli e valli tra una posta e l'altra, perché quando alla fine mi destai, fu a causa di un pugno nelle costole. Aprii gli occhi e vidi che eravamo fermi davanti ad un vasto fabbricato in una via cittadina e che era giorno fatto da un pezzo. «Dove siamo?» chiesi. «Bristol!» disse Tom. «Scendi giù!» Il signor Trelawney aveva preso alloggio in un albergo all'estremità dei moli per poter dirigere i lavori sulla goletta. Era là che dovevamo recarci. E con mio infinito piacere la nostra via correva lungo le banchine, dove si assiepavano bastimenti di ogni forma, attrezzatura e paese. Qui marinai che lavoravano cantando, là uomini sospesi sul mio capo per aria, a fili che non parevano più grossi di quelli di una ragnatela. Sebbene avessi vissuto sulla spiaggia tutta la mia vita, mi sembrava di non aver mai avvicinato il mare, prima d'allora. L'odore del catrame e del salmastro mi erano come nuovi. Vedevo le più stupefacenti polene che tutte avevano percorso oceani remoti. Vedevo in più non pochi marinai anziani con anelli alle orecchie, baffacci arricciati a picciolo, codini incatramati, con quella loro sbandante goffa andatura. E se avessi visto altrettanti re o cardinali, non avrei provato entusiasmo maggiore. E anch'io stavo per mettermi in mare. In mare su una goletta, con un nostromo che suonava il fischietto, marinai canterini dai codini incatramati. In mare, verso un'isola sconosciuta e alla ricerca di tesori sepolti. Mentre mi cullavo ancora in questo incantevole sogno, giungemmo a un tratto di fronte ad un grande albergo e incontrammo il signor Trelawney, vestito da capo a piedi da ufficiale di marina, di panno blu spesso, che usciva da un portone imitando alla perfezione l'andatura dell'uomo di mare. «Eccovi dunque!» gridò. «Il dottore è arrivato ieri sera da Londra, bravi! La brigata della goletta è al completo! Signore!» gridai io. «Quando salpiamo?» «Salpare!» rispose. «Salpiamo domani!» Quando ebbi terminato di far colazione, il cavaliere mi dette un biglietto indirizzato a John Silver, all'insegna del cannocchiale, dicendomi che avrei facilmente trovato il luogo, seguendo la linea della darsena e facendo bene attenzione a una piccola osteria con un gran cannocchiale d'ottone per insegna. Filai via, ben felice dell'opportunità di poter esaminare ancor meglio bastimenti e marinai, facendomi largo attraverso la calca di gente, carri e balle di merce, perché il lavoro sui moli era al suo massimo in quell'ora, finché non scoprii la mia osteria. Mentre aspettavo, un uomo uscì da una porta laterale e alla prima occhiata capì che doveva essere Long John in persona. Aveva la gamba sinistra tagliata all'altezza dell'anca e sotto l'ascella teneva una stampella che adoperava con mirabile destrezza, volteggiandoci intorno come un uccello. Era molto alto e robusto, un faccione di luna piena, pallido e comune, ma intelligente e sorridente, e sembrava davvero di umore più che allegro mentre passava fra le tavole fischiettando, una battuta spiritosa o un colpetto sulla spalla di ognuno dei clienti migliori. A dire il vero, io, fin dalla prima allusione a John Silver nella lettera del cavaliere Trelawney, ero stato colto dal sospetto che fosse lui il marinaio da una gamba sola che avevo spiato così a lungo al vecchio Bembow. Ma una sola occhiata all'uomo che avevo davanti bastò a dissiparlo. Avevo visto il capitano, Cane Nero e il cieco Più, e ritenevo ormai di sapere come fosse fatto un pirata, figura ben diversa, a mio giudizio, da un così lindo e gioviale padrone di osteria. Presi subito animo, varcai la soglia e mi diressi di filato verso di lui, che, appoggiato alla sua stampella, chiacchierava con un cliente. «Siete voi il signor Silver?» chiesi, porgendo il biglietto. «In persona, giovanotto!» rispose. «Proprio così mi chiamo io. E tu? Chi puoi essere?» E poi, quando ebbe visto la lettera del cavaliere, mi parve che avesse una specie di scossone. «Oh!» disse ad alta voce, tendendomi la mano. «Ho capito! Sei il nostro nuovo mozzo! Lieto di conoscerti!» E strinse la mia mano nella sua larga e solida presa. Proprio in quell'istante, uno degli avventori all'estremità opposta della sala si alzò di colpo e si avviò all'uscita. L'aveva vicina e così in un attimo fu nella via. Ma la sua furia aveva attirato la mia attenzione e mi era bastato un'occhiata per riconoscerlo. Era quell'individuo cereo mutilato di due dita che per primo si era presentato all'Admiral Bembow. «Oi!» gridai. «Fermatelo! È Cane Nero!» «Non mi importa un accidente di sapere chi sia!» strillò Silver. «Ma non ha pagato il conto! Harry, vola e agguantalo!» Uno di quelli che erano più vicini alla porta balzò su e si dette a inseguirlo. «Fosse pure l'ammiraglio Hawk in persona, il suo conto lo dovrà pagare!» gridò Silver. E poi, lasciando andare la mia mano, «Chi hai detto che è?» chiese. «Cane cosa?» «Nero, signore», risposi io. «Il signor Trelawney non vi ha detto dei pirati? Era uno di loro!» «Ma come?» gridò Silver. «In casa mia? Ben, corri ad aiutare Harry! Una di quelle carogne era! Di un po'! Eri tu che bevevi con lui, Morgan? Vieni un po' avanti!» L'uomo che aveva chiamato Morgan, un vecchio marinaio grigio dalla pelle color mogano, si fece avanti piuttosto abbacchiato, biascicando la sua cicca. «Dimmi un po', Morgan!» disse Long John, prendendola assai dall'alto. «Tu, su questo Cane Nero, non ci avevi mai posato gli occhi prima d'ora, spero?» «Io, no, padrone», disse Morgan con un inchino. «E il suo nome? Non lo sapevi, vero?» «No, signore.» «Per la galera, Tom Morgan! Meglio per te!» esclamò il padrone. «Se tu avessi avuto a che fare con un figuro simile, nella mia osteria non ci mettevi più piede, puoi esserne certo. E che cosa ti stava dicendo mai?» «E si parlava di punizioni con il giro di chiglia», rispose Morgan. «E con il giro di chiglia, eh? Soggetto adattissimo, non c'è che dire! Torna al tuo posto, zoticone!» E intanto che Morgan tornava al proprio posto, Silver mi aggiunse sottovoce ed in tono confidenziale, che io trovai assai lusinghiero. «È un perfetto galantuomo, quel Morgan. Soltanto è scemo.» «E adesso», riprese ad alta voce, «vediamo un po'. Cane Nero. No, no, il nome mi è nuovo del tutto. Eppure un tipo del genere. Ma sì che l'ho visto, quel furfante. Capitava qui con un mendicante cieco, capitava.» «E doveva essere proprio così, statene pur certo», dissi io. «Io ho conosciuto anche quel cieco. Si chiamava Più.» «Ecco!» gridò Silver, ora tutto esaltato. P.U. Senza dubbio era quello il suo nome. Sembrava uno squalo quello lì. Se agguantiamo Cane Nero adesso, sarà una bella notizia per il capitano Triloni. Bene, un buon velocista. Sono pochi i marinai che corrono meglio di lui. Lo dovrebbe agguantare un balzo dietro l'altro per la galera. Parlava di giri di chiglia, eh? Me lo faccio fare io un giro di chiglia. I miei sospetti si erano ridestati trovando Cane Nero all'insegna del canocchiale e quindi sorvegliavo il cuoco da vicino. Ma era troppo profondo, troppo svelto, troppo furbo per me. Cosicché, quando i due uomini rientrarono sfiatati, confessando di aver perso le tracce del fuggiasco nella calca e di essere stati malmenati come ladri, io stesso mi sarei reso garante dell'innocenza di Long Silver. «E adesso senti, Hawkins», mi disse, «questa è una faccenda maledettamente seccante per un uomo come me, non ti pare? C'è di mezzo il capitano Triloni, cosa ne potrà pensare? Avevo lì quel maledetto figlio di un olandese, seduto proprio nella mia osteria, a bere il mio rum. Arrivi tu e mi spieghi ogni cosa, e io gli do agio di battersela proprio sotto questi benedetti occhi. Ora, Hawkins, bisogna che vi giustifichi tu presso il capitano. Sei un ragazzo, va bene, ma sveglio quanto basta. Me ne sono accorto appena sei entrato. Dimmelo un po' tu. Cosa potevo fare io con questo vecchio trampolo da zoppino? Quando ero mastro marinaio di prima, mi sarei portato alla sua altezza in 4 salti e l'avrei fatto virar di bordo con un paio di urtoni all'antica. Ma adesso... che razza di bestia che sono! Disse alla fine asciugandosi le gote. Tu ed io dovremmo intendercela benone, Hawkins, perché ti garantisco che dovrei arruolarmi come mozzo anch'io. Ma intanto andiamo. Questo non servirebbe a nulla. Il dovere è dovere, amici. Mi metto senz'altro il mio vecchio tricorno e filo con te dal capitano Triloni a riferirgli questa storia. Perché, credimi, è una faccenda seria, giovane Hawkins. E né tu né io ne usciamo facendoci quel che si chiama una bella figura. Neanche tu, devi riconoscerlo, sei stato furbo. Furbi, nessuno dei due. Ma posso rimetterci i miei galloni? Quella del conto è stata bella per davvero. E da capo si buttò a ridere così di gusto che quantunque io non ci trovassi il comico che ci trovava lui, di nuovo mi toccò condividere la sua ilarità. Durante la nostra breve passeggiata lungo i moli, mi si mostrò compagno interessantissimo, istruendomi sui diversi bastimenti che oltrepassavamo, attrezzature, tonnellaggio, nazionalità, spiegandomi il lavoro che vi si svolgeva, che uno scaricava, l'altro imbarcava merci, un terzo si apparecchiava a salpare, intercalando di quando in quando qualche aneddoto su navi o marinai o ripetendomi qualche espressione nautica finché non l'avessi perfettamente imparata. Cominciai così a persuadermi di aver trovato in lui uno dei migliori compagni di bordo possibili. All'albergo trovammo il cavaliere e il dottor Livesey che stavano terminando un quarto di birra scura inzuppandovi pane abbrustolito prima di salire a bordo della goletta per una visita di ispezione. Long John raccontò la storia per filo e per segno con molto brio e con la più scrupolosa esattezza, con un continuo interpellarmi. «È andata così, vero Hawkins?» E io non potei fare a meno di confermare sempre. I due gentiluomini rimpiansero che Cane Nero se la fosse squagliata, ma fummo tutti concordi che non ci fosse nulla da fare. E Long John, dopo aver ricevuto le loro congratulazioni, riprese la sua gruccia e se ne partì. «Tutta la ciurma a bordo oggi alle 4!» gli gridò dietro il cavaliere. Gnorsì, strillò il cuoco. «Ecco, cavaliere», commentò il dottor Livesey, «non ho grande fiducia nelle vostre scoperte, in linea generale, ma tengo a dichiararvi che questo Long John mi va a genio». «Quello è un asso di briscola», sentenziò il cavaliere. «E ora», aggiunse il dottore, «Jim può venire a bordo con noi, non vi pare?» «Ma certo che può», disse il cavaliere. «Prendi il tuo cappello, Hawkins, e andiamo a visitare il bastimento!» Piero Baldini ha letto L'isola del tesoro di Robert Louis Stevenson. Riduzione Giovanni Piccioni. Regia Adelchi Battista. Coordinamento Fabiana Carobolante.